Incontri di Gianfranco Fabi. Musica di Strauss, il Cavaliere della Rosa, la suite del Cavaliere della Rosa. Iniziamo il nostro incontro di questa sera. Buonasera a quanti si ascoltano, buon anno e buona Befana per domani e buonasera e buon anno a Sandro Gervi. Buonasera a voi. Strauss è una musica allegra, una musica che è adatta forse per fare gli auguri di buon anno. Come mai questa scelta? Forse una passione familiare, padre e madre. Mia madre in realtà era viennese, però Strauss era tedesco, comunque era una musica che si sentiva parecchio in casa. Sandro Gervi, 70 anni possiamo esatto. dirlo, una carriera nel giornalismo, sia nel giornalismo dei giornali, sia negli ultimi anni come giornalista scrittore, giornalista storico, ha scritto numerosi libri, non li cito tutti, se no occuperemo tutto il nostro programma. L'ultimo è dedicato a Giovanni Enriquez, tra l'altro una personalità che intreccia la sua esperienza Enriquez con quella di Adriano Olivetti, di cui si è parlato molto nei mesi scorsi. Allora, Sandro Gervi, come è iniziata? Perché ha fatto il giornalista da piccolo? Beh, in realtà io non sapevo affatto che avrei fatto il giornalista. Mi sono laureato in legge, ho lavorato un anno in banca, sono stato alcuni mesi in America e tornando non sapevo assolutamente cosa fare. Renato Cantoni, che era all'epoca un famoso consulente finanziario, socio di agenti di cambio e collaboratore di testate importanti come Il Sole 24 Ore e La Stampa, mi ha chiesto se volevo fare il suo assistente. Parliamo degli anni 60? 69 esattamente. 69. Sì, la laurea del 67 e l'ingresso con Cantoni. E quindi nel 69 è iniziata questa esperienza in banca, perché Cantoni era in uno studio di agenti di cambio. Quando c'erano ancora gli agenti di cambio. Quando c'erano gli agenti di cambio e tra l'altro nello studio c'era Tilio Ventura, che poi è stato per molti anni il presidente della società di borsa. C'era ancora la borsa tradizionale con le grida, il recinto, i simboli che... Sì, con addirittura la borsa al pomeriggio fatta al telefono, dove ci si sedeva in alcune poltrone. E si trattava in puro dialetto milanese affari per miliardi sulle generali o su quell'altro, perché gli affari continuavano al telefono, il cosiddetto dopo borsa. Ecco, Ventura, abbiamo detto, Cantoni erano tre protagonisti, ce n'erano altri, Aletti per esempio. C'era Albertini, Boffa, Aletti, anche Emilio Moarra, il famoso giornalista. Beh, giornalista storico del Sole 24 sì. Ore, con la sua lettera al risparmiatore, che ha creato Infatti. Appunto anche poi una capacità di analisi finanziaria, di trasparenza finanziaria, che è un po' obbligato le aziende a essere trasparenti. Allora erano un po' meno trasparenti di adesso. Direi di sì, insomma, lui ha introdotto uno studio molto, come dire, obiettivo e pacato e non polemico, e naturalmente qualche volta faceva fatica ad avere delle informazioni, ma si basava sostanzialmente su bilancio e qualche colloquio con Nico. La cosa curiosa e divertente di quegli anni, che sono durati molto, 10-12, è che si faceva un capannello al verso le 12:30, quando Cantoni veniva in borsa, giù nella sede della borsa, e con queste persone che abbiamo nominato prima, Albertini, Moarra, eccetera, si discuteva degli articoli di giornata, dei temi di giornata, e Cantoni pontificava praticamente. Però, è stato il mio maestro di finanza, diciamo. In un certo senso. C'è anche una impostazione genetica da parte sua. Suo padre era uno degli esponenti di spicco del sistema bancario. Se posso dire, in picco, mio padre è stato capo dell'ufficio studi della Banca Commerciale dal 32 al 71, quando è andato in pensione. Quindi è stato sempre a fianco di Raffaele Mattioli, che l'ha assunto. Ma se posso dire che c'è quasi un tratto di familiarità, silicet parva, il mio padre era anche libero docente in storia delle dottrine politiche e quindi i suoi reali interessi non erano quelli di economista, anche se lui era quello che si definisce nelle banche internazionalmente il senior economist della della banca commerciale, però pubblicava scritti e studiava cose di storia delle idee o storia della politica. Quindi c'era già un intreccio tra il banchiere, lo studioso, il professore e il giornalista. Infatti, quindi ho respirato quest'aria sempre un po' mista di economia e di umanesimo in casa, che poi era quella di Matteoli. No? Tra l'altro Matteoli ha dedicato un libro, uno dei suoi libri. A Matteoli ho dedicato due libri, bene. Uno, il rapporto di amicizia fra Matteoli e mio padre. È forse il libro a cui sono più affezionato. Matteoli è il filosofo domato, mio padre era il filosofo domato appunto perché ingaggiato in banca. E l'altro è un libro su Matteoli e Cucce. In cui racconto i rapporti fra i due che non sempre sono stati così tranquilli come si pensa o si dice. Beh, indubbiamente Cucce è una figura che forse va ancora scoperta, se non riscoperta, di cui ci sono tante leggende, anche tante storie. Come ricorda Cucce? Cuccia ha una caratteristica interessante. A leggere i giornali e a sentire la fama che lo circonda ancora oggi, sembrava una persona gelida, dura, inavvicinabile. Per chi poteva rompere il ghiaccio e aveva accesso, come è capitato a me di vederlo parecchie volte, perché mi riceveva come figlio di Antonello Gerbi, non come giornalista, non per intervista, era una persona estremamente affabile, di spirito, attenta, molto umana, quindi devo dire, al di là di quelle che sono state le polemiche in alcune circostanze, certo, gravi come il caso Ambrosoli eccetera, lui era una persona umanamente molto gradevole. Ma era veramente quello che viene descritto un burattinaio di tutta la finanza italiana? Ma forse questo è troppo, lui tendeva... Cioè, muoveva le fila un po' di tutti, tendeva, e che anche i grandi, da Agnelli a Pirelli, in fondo obbedivano a Cucce. C'è stata sicuramente una lunga fase in cui lui ha svolto questo ruolo, però poi intanto i gruppi di cui lui tirava le fila erano sempre gli stessi e non tutto l'universo economico italiano. E poi per esempio con gli Agnelli a un certo punto c'è stato un distacco netto e parecchie operazioni gli Agnelli le hanno fatte assolutamente in modo indipendente, anzi facendo arrabbiare Cuccia parecchio. Ecco, torniamo un po' anche a Raffaele Matteoli, di cui ha scritto un libro, l'ha conosciuto personalmente. Sì, sì. Io andavo bambino in studio da lui e lui mi faceva fare braccio di ferro, solo che mi faceva fingeva di farmi vincere, poi sempre capovolgeva il braccio dall'altra parte. Mio padre, quando andavo a trovare mio padre in studio, spessissimo si passava da lui, da Matteoli. In Piazza della Scala. In Piazza della Scala, in sua famosa. Dove adesso c'è il Museo del Novecento. Galleria d'Italia. Galleria d'Italia, fatte dalla Fondazione Caripo, che poi ha acquisito la Banca Commerciale Italiana. Ecco, sì. Banca Commerciale Italiana era uno dei simboli della finanza italiana. È stata una tristezza, devo dire, questa operazione che una volta mi è capitato di parlare con Bazzoli. E lui dice che lui avrebbe voluto mantenere il nome, l'ha anche dichiarato, fatto dichiarare in assemblea, però poi di fatto per alcune questioni tecniche di incarico affidato a delle società di revisione eccetera, insomma è finito per sparire. Cioè, ma c'è stato quel periodo un po' buffo in cui si parlava di intesa BCI. Intesa BCI sembrava molto elegante. Sembrava molto elegante, infatti. E questo è purtroppo è successo e ha lasciato, devo dire, un grande vuoto, perché una volta c'era questo centro bancario internazionale molto rispettato, adesso ci sono altre banche, altre entità, ma non con quel gran nome. Come mai non anche è... come scuola poteva essere anche il contrario. Io ho chiesto una volta a Cingano, che era presidente della banca commerciale e poi della Comit, come mai era successo questo e perché non aveva fatto una fusione con Mediobanca e Unicredito, Credito Italiano all'epoca, e lui mi ha risposto chiaramente, cioè, ci è stato impedito dalle autorità centrali, cioè dalla Banca d'Italia all'epoca retta da Fazio. Retta da Fazio, quindi è una logica, diciamo, di spartizione in un certo modo, va? Sì, forse sì, perché... O di rafforzamento di alcuni a proposito di altri. Anche se è sempre stata negata questa suddivisione tra banchieri laici e banchieri cattolici, poi di fatto un po' esisteva e questo è un segno di una preponderanza in quel momento della cosiddetta finanza cattolica. Ecco, la banca commerciale era con Cuccia una, invece dalla parte della finanza laica, quindi è andata a rafforzare la finanza cattolica in un certo senso. Sì. Ma cosa ricorda della banca commerciale di questo palazzo appunto in Piazza della Scala, quando la banca commerciale era in fondo l'unica banca internazionale italiana? Io ricordo le numerose visite che facevo ai segretari di Matteoli, Emilio Brusa, mitico, o a Valentino Bona, che era un altro assistente, da cui si passava prima di entrare nella grande stanza di Matteoli, tutta coperta di libri, di asinelli, perché li collezionava, eccetera. E sempre una persona in visita o telefonate, eccetera. Però l'evento che mi è rimasto più impresso nella memoria, su cui ho scritto anche alcune pagine, è l'ultima assemblea di Raffaele Matteoli, che è avvenuta nell'aprile del 72, quando Matteoli è stato praticamente mandato via dal tandem Andreotti Colombo e l'hanno sostituito alla presidenza con Gaetano Stammati. Sì. Ricordo a questa assemblea, quando Matteoli fece uno dei suoi soliti discorsi molto immaginifici e brillanti, e la platea applaudiva, sentiva che era un momento anche. E in quel momento si è alzato Pasquale Saraceno, che pure era un vecchissimo amico suo dai tempi dell'Iri, persona anche lei anche rispettabile, però ha avuto l'incarico di annunciare la nuova presidenza di Stammati. È andato al microfono, in quel momento Matteoli gli ha detto, sgridandolo quasi, ma Saraceno, tu mi interrompi l'applauso. e poi è avvenuto purtroppo quello che è avvenuto. E quindi è stato il momento in fondo della svolta. È stato un inizio di svolta. Poi però c'è stato una specie di cordone sanitario che è stato messo da tutta la vecchia Comet intorno a Stammati. E dopo 4 anni è tornata una presidenza Comit, e la banca poi è ritornata un po' quello che era in precedenza. Insomma. Una privatizzazione molto particolare, come si è scritto. Quello sì, francamente non saprei entrare nei dettagli, ma insomma è stato un modo per rifornire di mezzi liri in quel momento. Insomma. Indubbiamente. Sandro Gerbi, per concludere questa prima parte, abbiamo parlato della sua esperienza giornalistica, come mai poi dal giornalismo, diciamo, quotidiano è passato al giornalismo un po' storico? Beh, la storia è riassumibile in poche parole. Io ho iniziato a fare un po' di giornalismo economico attraverso Cantoni, che era molto amico di Arrigo Benedetti. Quindi i miei primi 4 anni sono stati da collaboratore molto intenso con il mondo di Benedetti, e sempre di cose di finanza, fino ad arrivare a una pagina ogni settimana. Poi ho continuato al giorno, finché a un certo punto, morto mio padre nel 76, sono stato assunto da Gaetano Feltra. Mi sono reso conto subito che non mi piaceva il mondo del giornalismo, perché mi sembrava che fosse un mondo impiegatizio, dovevo timbrare il cartellino, dovevo scrivere gli articoli. E di questo, magari, del giornalismo parleremo nella seconda parte. Lasciamo un po' di curiosità ai nostri ascoltatori, ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. Incontri. Ancora con le note del Cavaliere della Rosa di Strauss, riprendiamo il nostro incontro con Sandro Gerbi. Buonasera e buon anno a quanti ci ascoltano. Ci diceva alla fine della prima parte Sandro Gerbi che era entrato nel mondo del giornalismo con Nel Giorno, assunto da Gaetano Feltra, ma non si è trovato molto bene. Sono stato in economia, come ambiente, come persone mi sono trovato abbastanza bene, però il tipo di lavoro non mi piaceva molto, mi sembrava piuttosto impiegatizio. Anche l'idea di dover fare 6 ore e un quarto ogni giorno mi disturbava. Io andavo in borsa a raccogliere le informazioni al mattino, non contava ai fini dell'orario di lavoro. Ben presto ho deciso che avrei fatto il praticantato, l'esame che ho fatto, e me ne sarei andato via, avrei fatto il freelance, cosa che è avvenuta nel 78-79. È un po' strano che uno che conosceva molto bene il sistema bancario, passando dal sistema giornalistico, trovasse più impiegatizio, sì, il sistema giornalistico che non il lavoro in banca. Che in borsa. In borsa, forse in borsa, sì, era forse un po' diverso. Un po' diverso del lavoro in banca. Sì, certo. Più brillante, più divertente. Insomma. Forse un po' effervescente, sì, anche un po' di trame in quel periodo, forse. Insomma, poi grandi boom, poi sgonfiamenti, insomma, c'è stato un momento di grande vivacità. Comunque io sono andato, ho mantenuto qualche varie collaborazioni, ma soprattutto mi sono inventato un giornaletto che ancora in Banca d'Italia ricordano, che si chiamava Lettera Sige, in cui mi occupavo del mercato monetario italiano che nasceva in quel momento, i BOT famosi. Certo. Nasceva, e la Banca d'Italia mi apriva ogni porta, perché aveva interesse a che queste informazioni circolassero, o istruzioni, anche analisi. era stata sovvenzionata dalla SIGE, che era una finanziaria dell'IMI, da quel Gianmario Roveraro, finanziere di grande valore a mio avviso, sì, che purtroppo ha fatto una fine tragica, certo, ha ucciso e smembrato, eccetera. Quindi ecco, passato da un giornalismo, diciamo, dei quotidiani a un giornalismo più specializzato. In una settimana di lavoro guadagnavo quello che guadagnavo in un mese, per cui le altre tre settimane studiavo, leggevo, scrivevo. Allora che riusciva a guadagnare quattro volte quello che... quindi metteva abbastanza... Si guadagnava abbastanza bene, mai da diventare ricchi ovviamente, però certo, poi ero anche scapolo a quell'epoca. Cosa succede? La grande svolta è stata questa, che è morto mio padre nel 76 e mio padre ha lasciato un volume già pubblicato dalla Ricciardi nel 55, la Ricciardi, la casa editrice di Matteoli, che si chiamava La disputa del nuovo mondo e che raccontava la visione della cultura europea nei confronti dell'America tra il 1750 e il 1900, e in particolare raccontava l'idea di inferiorità dell'America. Ci sono molti intellettuali europei che consideravano l'America un paese inferiore sia geograficamente sia umanamente, certo, e questa polemica è andata avanti fino al Novecento. Mio padre ha lasciato questa seconda edizione più grande di un terzo rispetto alla prima, da completare, nel senso da editare, era scritta. Dopo qualche anno dalla sua morte, la Ricciardi mi ha dato l'incarico di curare questo volume. Io ho cominciato il lavoro di editing con il più difficile che potesse capitare, 800 pagine, indice dei nomi, indice analitico, citazioni in 5 lingue, e mi ci sono voluti 4 anni di lavoro. Io andavo negli Stati Uniti, sono andato alla Biblioteca Nazionale a Parigi, a Londra, al Library of Congress in America, e ho scoperto che questo lavoro mi piaceva enormemente e mi piaceva anche più la materia. Finito questo lavoro, che era più sul côté settecentesco, ottocentesco, ho deciso di occuparmi un po' di cose di famiglia, cioè del Novecento. Mio padre ha avuto una vita abbastanza avventurosa. Nel 38, a causa delle leggi razziali, certo, è stato mandato da Matteoli in Perù, è rimasto 10 anni, io sono nato lì. Mio zio, Giuliano, suo fratello, era diventato speaker della Voce dell'America. Ho cominciato a studiare questa sua attività, la radio della Voce dell'America, e ho partecipato con un paper a un convegno sulla radio durante la guerra. Questo paper l'ho mandato per amicizia a Gaetano Scardocchia, che all'epoca era direttore della Stampa. Sì. Mio amico, perché lo conoscevo dai miei viaggi americani, lui era stato a lungo corrispondente dagli Stati Uniti. E dopo un mese circa, Scardocchia mi telefona e dice: sai Sandro, ho letto il tuo saggio, erano 30 pagine, non ho molto tempo, però ho voluto andare fino in fondo, mi è piaciuto, vuoi collaborare alla Stampa? E poi aggiunge: nelle pagine della cultura. Ah beh, quindi anche una svolta di carattere così professionale. Una svolta completa, era il 1990. E io ho detto: ma non so, preparo qualche lista di argomenti. Ho preparato un elenco, sono andato a trovarlo e lui mi ha detto: va bene, cominci con questo, poi questo e poi questo. E da lì è cominciata la mia svolta, diciamo, verso temi di carattere novecentesco, di carattere storico. A Scardocchia e poi al suo successore Miele piaceva il fatto che io fossi uno scavatore d'archivio. Avevo imparato in questi anni a scavare in archivio e quindi portavo spesso della merce fresca, delle notizie d'archivio ignote, che, però, appunto, che io costruivo, raccontavo delle storie. La storia è importante per capire il presente, per capire dove siamo. E da questo è nato anche l'interesse da cui appunto è partito l'ultimo libro su Giovanni Enriquez, Dalla Olivetti alla Zanichelli. Sì, l'interesse parte da un interesse familiare, perché in realtà mio padre era molto amico di Giovanni Enriquez. Io poi sono diventato quasi per caso amico dei figli di Giovanni Enriquez, perché avevo ereditato 2 azioni della Zanichelli che un mio prozio aveva ricevuto in conto diritti quando la Zanichelli negli anni 30 stava quasi fallendo, e allora pagava gli autori con qualche azione. E grazie a questo sono andato per 20 anni all'assemblea e poi siamo diventati amici. Ero lo 0,001%, certo, e ho scoperto quanto interessante era la personalità di Enriquez, che nessuno aveva però mai studiato. Ecco, questo libro edito dalla Oepli proprio da qualche settimana in libreria racconta appunto questa avventura umana di Enriquez, che si è a un certo punto intrecciata con quello di Adriano Olivetti. Sì, Enriquez era figlio di un famoso matematico, Federico, laureato in ingegneria ed entrato nel 30 alla Olivetti come operaio, poi un anno in America come facevano spesso alla Olivetti per conto suo, e rientrato. È piaciuto a Camillo Olivetti, ha conosciuto Adriano e già nel 36 era diventato direttore commerciale dell'Olivetti. Ha fatto una brillante carriera è stato all'Olivetti insieme ad altri due nel momento in cui Adriano era andato in Svizzera e ha salvato l'Olivetti, anche quasi corrompendo degli agenti dell'SS che volevano far saltare la fabbrica. E al ritorno di Olivetti ci sono state un po' di vicende per cui sembrava che lui dovesse lasciare l'Olivetti, però ci è rimasto, è diventato direttore generale finché nel 1953 ha avuto una divergenza che si potrebbe, con Adriano, che si può riassumere così: lui era un manager anche prudente, mentre Adriano era l'uomo della visione del futuro, certo. E tendeva a un espansionismo costante. Un manager anche oggi non sempre sarebbe favorevole a ampliamenti, investimenti, guarda anche gli aspetti commerciali e finanziari. Si parla di sostenibilità adesso di certe cose. Quindi lui se n'è andato nel 1953, però ha avuto una consulenza della Olivetti. È andato a far dirigere la neonata scuola dell'IPSOA, dove si creavano questi manager nuovi, ed è stata un'esperienza per lui molto bella e dice fortunata, per 3 anni, ed è stato tra i primi che ha inventato e suggerito in Italia i cosiddetti ingegneri gestionali. E poi è stato consulente dell'IMI nel settore turistico, anche lì con molta anticipazione rispetto ai tempi, e soprattutto aveva ereditato da uno zio una casa editrice, la Zanichelli, cui è diventato presidente ben presto, ma non se ne occupava. Finché a un certo punto ha deciso di occuparsene l'ha rilanciata. Applicando tutta la sua esperienza di manager al neoimprenditore che stava diventando. Ecco, Giovanni Enrico è certamente una figura simbolica anche di un'Italia della ricostruzione, un'Italia appassionata che cercava nuove strade, così come Adriano Olivetti diceva appunto che aveva delle grandi visioni. Forse il racconto che se n'è fatto di Adriano Olivetti è stato un po' geografico, però era un'Italia diversa da quella attuale, quella degli anni 50. Sicuramente Giovanni Enrico fa parte di quella schiera di manager o imprenditori di grande qualità che guardavano oltre il loro particolare. Ad Enrico ha esitato un pochino ad andare alla Zanichelli perché era abituato a pensare in grande attraverso, certo, l'Olivetti. Poi era un liberale militante, era del gruppo di Pannunzio, scriveva sul Mondo, e quando è andato a fare il consulente dell'IMI, banche d'affari ne ha guidata una per conto dell'IMI, prevedeva lo sviluppo turistico sarebbe stato una attu per risollevare il sud, certo, cioè pensava in grande, certo. Poi lo stesso ha fatto quando è andato alla Zanichelli, al di là degli aggiustamenti tecnici e delle novità che ha introdotto, lui ha sempre visto l'istruzione come uno dei pilastri per riformare questa nostra povera. Ecco, tutto quello paese. Che volete sapere su Giovanni Enrico lo trovate in questo libro di Sandro Gerbi, edito da Eupli. Adesso, Sandro Gerbi, prossimamente in libreria che cosa ci porterà? Adesso questo è appena uscito, quindi sono anche, un po' esausto, però sto finendo di curare una raccolta di scritti promemoria e tecnici di Enrico Cucce, che uscirà dall'editore Aragno. Quindi tecnici vuol dire di tecnica bancaria? O di... Vuol dire studi, vuol dire promemoria, vuol dire per esempio uno studio sull'ente Zolfi fatto nel 1951, oppure delle sue comunicazioni del 1932 in cui comunicava alla Banca d'Italia l'andamento dei cambi sulla piazza di Londra dove lui si trovava, vuol dire anche le audizioni, quelle poche che lui ha fatto pubbliche, quindi non sono solamente cose riservate, ma messe tutte insieme creano un'immagine di una persona di parecchio spessore, insomma. Ecco, un'immagine forse un po' diversa dall'immagine che si ha spesso di Cuccia, come quello di prima dicevo, magari si ha l'immagine di uno che muoveva un po' di nascosto le fila dell'economia italiana. Lei diceva appunto anche, conosciuto da vicino, aveva una grande umanità, una grande capacità di relazione, in fondo anche una passione vivace per le cose che lo circondavano, quell'immagine un po' treta dell'uomo che cammina un po' curvo sotto i portici di Piazza Scala per raggiungere Piazzetta Cuccia, che poi è diventata Piazzetta Cuccia dopo, ovviamente. Sì, questo è quello che era, posso confermare, insomma. E guardando adesso, proprio in un flash, la realtà attuale, qual è il personaggio che... su cui scriverebbe più volentieri, magari tra qualche anno, tra i banchieri, che anche di banchieri protagonisti ne abbiamo avuti, ne abbiamo adesso in fondo, di protagonisti dell'economia. Io francamente oggi non riesco a trovare personaggi di quella levatura. l'unica persona che mi piacerebbe studiare, forse lo farò più avanti, è Bruno Visentini, ma stiamo parlando di persone della stessa generazione di Enriquez e degli altri, perché non è stato ancora studiato e ha svolto ruoli di grande interesse anche in ambito culturale con la Fondazione Cini, eccetera. Ecco, forse ci vorrebbe un po' più di capacità storica nell'affrontare, non dico l'attualità, ma gli anni che ci hanno appena preceduto, li abbiamo forse vissuti un po' superficialmente. Sono stati anni tristi, devo dire, sono stati questi ultimi 20 anni, per quello che posso dire, sono stati anni tristi in cui si è persa un po' la sensazione dell'etica pubblica. Dobbiamo concludere questo programma facendo gli auguri di buon anno e pensando che il 2014 sia un anno in cui torna un po' di fiducia, un po' di speranza, un po' di ottimismo. Possiamo lasciarlo? Sì, e soprattutto si prevede che possano anche mutare un poco gli assetti e avere anche, come dire, una politica un pochino più efficace, più decisionale, non quella che adesso a me sembra un risultato di compromessi vari. Certo, e in cui possono emergere magari delle personalità capaci anche di dare delle visioni, delle prospettive e soprattutto di fare sperare le persone. Grazie a Sandro Gerbi di essere stato con noi, ancora buon anno a quanti ci ascoltano, grazie anche a Fabio Cantadori in regia, a Guido Scotti e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buon anno.